Letture di Radio 24. Nel 1974 Lucio Battisti, dopo 5 anni di silenzio stampa, concede una lunga intervista al settimanale Ciao 2001, all'epoca la rivista musicale più diffusa in Italia. A realizzarla è Renato Marengo, giornalista e produttore musicale, che in quei giorni stava lavorando al nuovo album di Tony Esposito, proprio negli stessi studi di registrazione dove Battisti era impegnato nelle prove del nuovo album, Anima Latina. Ora Marengo rievoca in un libro quelle giornate passate negli studi di Anzano del Parco, durante le quali a poco riesce a entrare in confidenza con Lucio. Battisti non sapeva che io fossi un giornalista, altrimenti non avrebbe mai parlato con me tanto liberamente e tanto a lungo. O non mi avrebbe parlato affatto. Non che glielo avessi nascosto di proposito. Io stesso all'inizio non avevo nessuna idea che quelle chiacchierate con lui sarebbero poi diventate una lunga intervista. Io ero al mulino per fare il mio lavoro di produttore. Lucio lo avrebbe scoperto solo la quinta sera, a cena. La sera in cui aveva completato i riascolti del suo disco e si accingeva finalmente a lasciarci lo studio. Successe così. Mogol, non bisogna dimenticarlo, non era solo il paroliere di Lucio, ma anche il socio e soprattutto il produttore discografico di Battisti. Giulio, che covava la segreta speranza che Lucio finalmente uscisse dal suo mutismo con la stampa, la sera a cena, mentre eravamo tutti intenti a lottare con i bucatini che non si lasciavano arrotolare tanto facilmente, ci sorprese tutti, dicendo di dirgli che io ero un giornalista. E proprio mentre Lucio festeggiava con tutti noi, con i suoi amici e collaboratori, la fine effettiva del suo LP, lì, davanti a tutti, ricordo esattamente le sue parole. «Lucio, allora ti è simpatico, Renato? Vedo che avete fatto amicizia». E lui tranquillo. «Sì, molto. Mi ha fatto piacere conoscerlo. Ci siamo scambiati molte idee. Abbiamo discusso tanto. Abbiamo parlato di musica, di stili di vita, di tante cose. Renato è uno con cui mi fa piacere parlare di musica». «Ma lo sai che lavoro fa Renato?» continua senza interrompersi Mogol. «Certo, Giulio. Renato fa il produttore». È il produttore di Tony, della nuova compagnia di canto popolare, di Edoardo Bennato. Lucio, incalza Mogol, devi sapere che Renato è anche un giornalista. È un critico musicale. Si occupa in particolare della musica pop e rock italiana sul settimanale Ciao 2000. Battisti rimase apparentemente impassibile. Io, per alcuni lunghissimi, interminabili secondi, mi sentii come in colpa. Ero molto a disagio. Come se avessi artatamente nascosto qualcosa, quasi avessi teso una sorta di agguato a chi in buona fede si era aperto con me al di là di ogni previsione. Anche se, ribadisco, sino a quel momento non avevo minimamente pensato di carpirgli segreti e notizie, né di scrivere di questa quasi fortuita ma tanto ampia frequentazione con il divo più braccato d'Italia. Ricordo solo che lui restò ancora per qualche attimo a fissarmi, tenendo una forchettata di pasta a metà strada tra il piatto e la bocca. 2, 3 interminabili secondi. Poi Lucio parlò. Disse subito, lanciandomi un'occhiata interrogativa, che non conosceva quella rivista. Come egli stesso poi mi confidò, Lucio non leggeva nessun giornale, per scelta. Credo veramente che leggesse solo partiture musicali, testi di canzoni e note di copertina sui dischi. Poi qualche libro, biografie di grandi musicisti, poesie e riviste di viaggi, quelle sì. Durante quegli attimi, lunghi una vita, nell'attesa della reazione di Lucio, mi venne da pensare: ma chi me lo fa fare? Ma a me che me ne frega di fare un'intervista a Lucio Battisti. Non è mai stato un artista che mi interessasse. Io sono un critico rock, ho conosciuto Frank Zappa, sono amico di Giuseppe Sinopoli, lavoro con Roberto De Simone, ho intervistato John Cage, scrivo dei Beatles e degli Yes. Ma che me ne importa? Ma che ci faccio io qui? Fu veramente un attimo di panico, i pensieri sulla difensiva, una botta di autoconforto in attesa di chissà quali imprevedibili attacchi. Poi, alla fine di questa consolatoria iniezione di autostima, tra le mille considerazioni mentali sparate in quei secondi, si inserì nel mio conflitto interiore anche la consapevolezza che, comunque, la sua musica mi era piaciuta e, accidenti, mi era piaciuto anche lui. E allora? Allora, per fortuna, Mogol ruppe il silenzio di quei pochi secondi sembrati interminabili. Giulio, L'ho detto, si augurava che Lucio, uscendo da quell'embargo forzato con la stampa che durava ormai da diversi anni, riprendesse finalmente a parlare con i giornalisti e che promuovesse adeguatamente quel disco che attendeva di uscire da ben 2 anni, per di più con mutamenti radicali nello stile e nei contenuti. Certo, non più commerciali come nella fortunatissima produzione degli anni precedenti, e quindi con grandi incognite circa il tipo di accoglienza che gli avrebbero riservato il pubblico e la critica. Per cui a quel punto gli propose a bruciapelo: «Ti farebbe piacere se Renato scrivesse un articolo su di te, sul nuovo LP?» E Lucio, sempre con la forchettata di bucatini a mezz'aria tra il piatto e la bocca, rivolto a me che, ripeto, ero imbarazzatissimo, perché preso anch'io alla sprovvista e perché avvertivo la grande tensione del momento, nell'improvviso silenzio che era sceso tra tutti i presenti disse, molto serio e fissandomi dritto negli occhi, «E di che cosa scriveresti?» Io, prendendo quei 2-3 secondi di tempo necessari per deglutire un sorso di vino rosso, risposi semplicemente «Di musica, naturalmente. Parlerei del nostro incontro, delle impressioni che mi ha dato la tua nuova musica, delle cose che ho ascoltato e di quelle che mi hai detto sul tuo cambiamento. Ecco, io mi soffermerei proprio sul tuo cambiamento. Scriverei di tutto quello di cui in questi giorni abbiamo parlato, di musica. Il mio giornale si occupa solo di musica. Se tu sei d'accordo, posso scrivere un articolo sul nuovo LP e sulle cose di cui abbiamo discusso. Posso anche fartelo leggere prima di pubblicarlo». E Battisti, sempre fissandomi negli occhi, «Renato, ma noi, in questi giorni, di che cosa abbiamo parlato?» «Di musica, della tua musica, delle tue nuove ispirazioni, delle tue nuove esperienze, di questo cambiamento. E allora, beh, se scrivi veramente solo di musica, perché no? Penso che si possa fare. Siamo diventati amici, sento di potermi fidare di te, ok?» A quel punto Mogol non si trattiene più e urla: «Bene, bravo Lucio! Renato è riuscito a farti uscire dall'isolamento. Bisogna subito brindare!» Gli brillavano gli occhi a Giulio. Era felice e incredulo. Ancora non gli sembrava vero che Lucio, sempre più schivo e riservato, dopo aver negato per anni a tutti, persino al Transatlantico della Musica Italiana, il settimanale TV Sorrisi e Canzoni, che gli stava dietro con 1000 promesse di copertine, grandi lanci e promozioni, anche una sola dichiarazione, avesse quella sera acconsentito, con la massima serenità, a concedere quella tanto attesa intervista. Al Brindisi si unirono Tony, i suoi musicisti, Claudio Pascoli, il fonico di studio e Alberto Radius, che si alzò dal proprio posto a tavola e venne ad abbracciare sia Lucio che me. Per Alberto, io ero una persona molto fortunata, un privilegiato, uno dei rarissimi esterni al clan a cui fosse stata accordata tanta fiducia. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dal libro di Renato Marengo, Lucio Battisti, la vera storia dell'intervista esclusiva. Coniglio Editore, 176 pagine, 14,50 euro.